dagli studi di Radio Panorama, Andrea Massaro, Antonio Panzica e Alessandro Montemagno presentano L'Onda in Onda. Ed eccoci qui tornati per un altro mercoledì da Leoni. Se non sbaglio c'è anche un film il mercoledì da Leoni, o no? Non mi ricordo. Sì, ma perché tu oggi hai il microfono cubico? Anche tu c'hai il microfono circolare oggi. Anche tu? Perché anche tu? Se io ce l'ho circolare tu cubico. Ciao Andrea! Ciao Antonio, noi abbiamo il microfono circolare perché niente, oggi ci sono stati questi rinnovamenti allo studio con delle belle etichette fighissime nei nostri microfonetti. Ah, sì, è vero. Noi la vostra musica, noi la nostra voce. Ma vabbè. Allora, diamo subito i contatti perché siamo qui per un'altra puntatona frizzante, due ore in compagnia di Radio Panorama e dell'Onda in Onda. Allora potete chiamarci, io vi dico stavolta al contrario, partiamo dal telefono invece di dire sempre Facebook. Ma sì, potete telefonarci anche adesso per insultarci, mandarci una scorreggia, una pernacchia allo 091 888 5182, oppure mandarci un sms se non volete far sentire la vostra voce e siete dei timidoni, al 380 76 90 204. Ma se siete su internet ci trovate al profilo facebook.com/l'onda in onda con la L, o se siete dei twittatori folli, twitter.com/onda in onda senza la L. Brum, vedo che stai per dire qualcosa, eri pronto? No, sembrava tipo le linee hot. Se voi siete timidoni, se siete dei timidoni e aspettate però soltanto di godere, potete mandare un sms comodissimo da casa. Andrea intanto si sta litigando proprio con Twitter. Chi c'è, Andrea? Tutto sto aggiornando gli status del nostro Twitter e quindi mi sto litigando un pochettino con la mancanza dei 140 caratteri per Twitter, insomma. E quindi, e mentre Andrea prova a scrivere il primo tweet di questa serata, noi non possiamo che cominciare con la nostra sigla. 1, 2, 3, 4. A cavallo di quest'onda spallottato da sponda a sponda, seguendo un'altra volta la grande sponda che ritorna. A cavallo di quest'onda spallottato da sponda a sponda, seguendo un'altra volta la grande sponda che ritorna. Onda in onda, bombo, grazie, odo, c'è fiermo, se va, chiamare. 1, 2, 3, 4. Noi siamo i giovani. Mentre noi balliamo sulle note dell'onda in onda, no, della grande onda, che della grande onda. E vabbè, sì, il nome del programma è L'Onda in Onda. Allora, settimana interessante come tutte quelle che precedono una nuova puntata. Per esempio, cosa è successo? Hai sentito che Ingroia si è litigato con la Boccassini? Ingroia con la Boccassini, è già giuro che manca soltanto l'onorevole Bocchino. Esatto, Italo Bocchino, e poi il litigio tra Ingroia e la Boccassini. Lo ripetiamo per il regista che era un po' disattento. Diamo il benvenuto al nostro amico Giorgio che è appena entrato. Ma il pubblico ce l'abbiamo oggi, Brumma? No, non c'è ancora. Ancora sta prendo, non è, sta arrivando. Sta prendendo la porta. Eccolo, entra già carico. Già applaudendo, sì, soprattutto l'ingresso il pubblico di... quando si avvicina alla radio già proprio applaude. Sì, cammina applaudendo. Applaudisce, come dice qualcuno. Applaudisce. Niente, la Boccassini, famoso PM milanese, ha avuto qualcosa da ridire su Antonio Ingroia, rimproverandolo di utilizzare un po' troppo come baluardo, che ti ricorda un po' questo personaggio, il nome di Giovanni Falcone. Anche Maria Falcone ha avuto qualcosa da ridire. Diciamo in realtà Maria Falcone si è presa con lui, ma Ingroia ha replicato dicendo che se sapesse la Boccassini quello che pensava di lei Falcone, no? Ha lasciato la frase così. Ah sì. Però Maria Falcone, insomma, se l'è presa con Ingroia. Io posso dire di aver conosciuto Maria Falcone e di considerarla, diciamo, abbastanza attendibile sotto il punto di vista delle sue affermazioni. Dato che ne condividiamo una in particolare, ma non so qui a fare polemica. C'è quale? No, niente. Dai, su una che adesso è europarlamentare, dai, non possiamo. Ah, per esempio, tipo SA, le iniziali. Lasciamo stare. E quindi posso dire che mi fido di quello che dice la. Cos'è che ha detto Maria Falcone? Ingroia, diciamo. diciamo in poche parole, ha detto: ah vabbè, anche Giovanni Falcone era stato criticato. E allora la Boccassini ha replicato dicendo: ma tu sei distante milioni di anni luce da Falcone, vergognati a paragonarti a lui. E insomma, quindi si è aperta questa polemicuccia, Questa chirel. Ma diciamo che ultimamente il signor Berlusca sta recuperando voti, sta recuperando terreno, soprattutto dopo avere detto che Mussolini non ha fatto nulla e aver acquistato Balotelli. Ricordiamo che ieri Andrea, per chi non lo dovesse avere, perché non tutti ce l'hanno, no? Come amico Facebook, praticamente amico Facebook, tipo amico c'è l'amico Charlie Brown, c'è l'amico Facebook. È l'amico Facebook. Lui ha scritto: dopo la fine della partita Lazio-Juve, valevole come semifinale di Coppa Italia, vinta dai biancocelesti per 2-1, se non sbaglio, correggetemi, benissimo, mi confermo alla regia, così ha chiesto: ma Arturo, Marchisio, cos'è Vidal? Balotelli, perché tutti hanno un'immagine di Balotelli, cos'è Vidal? Io ero fermo solo quando era un bagnoschiuma. Lui non ha idea di cosa sia il calcio. Io non ho la minima idea di nulla. Beh, Berlusconi, sai, ha fatto questa mossona di comprare Balotelli per avere anche qualche voto in che più. Mi sono istruito. Lui era all'Inter, tutti lo volevano al Milan, e allora Berlusconi se l'è comprato. Tra l'altro, Berlusconi che disse: aspetta, vediamo se riusciamo. Io studio quando non so le cose. Vediamo se riusciamo un attimo a collegarci con lui. Presidente, lei cosa ne pensava di Balotelli? Ho sempre detto che era una mela marcia e nulla volevo. Io non ne sapevo niente di questo collegamento. È stato velocissimo, lui l'ha mandato tipo. Ma lui è collegato qui spiritualmente. Lui ogni tanto non c'è bisogno. Prova a chiamalo. Presidente. Gesù. Sì, lui risponde sempre a lì. Va bene, noi al presidente, a tutti quelli che ci stanno ascoltando, dedichiamo subito il primo pezzo di questa serata. Sono i News con Starlight. Keep intanto Andrea per ballare mi ha dato anche un pugno. Mi dispiace, sulla mandibola. Lo studio è quello che è. Sì, tra l'altro la ballavi come se fosse Pollon combina guai, non Starlight. Cioè, le mosse erano quelle. Salutiamo Fabrizio che ci sta ascoltando da Palermo, grande organizzatore di serate, nonché collega di vicina. Soprattutto il nostro ascoltatore famoso. Chi è? Come? Quello famoso Bizzoni, Giuseppe Bizzoni. mio caro follower di Twitter che proverà la novità radio video, che non è una novità in realtà. Infatti, ma l'abbiamo sempre annunciato. Scusi signor Bizzoni, lei dove è stato finora? Quando ci ha seguito, a chi seguiva? Ma mi sa che era nel lago lì dove si vede nello sfondo della foto di Twitter. Anzi aggiungete tutti, seguite tutti Giuseppe Bizzoni. Ora magari avrà tipo 30.000 followers in 5 minuti. Allora no, continuiamo invece con la nostra trasmissione annunciando quello che sarà la classifica delle 10. Lanciamo da circa un mese, ormai possiamo dirlo, credo sia la quarta settimana in cui lanciamo una classifica. Ne abbiamo avute diverse, e quella di oggi è i 10 momenti in cui realizzi di essere diventato irrimediabilmente vecchio. Ma annunciamo soltanto la classifica, perché in realtà dobbiamo partire prima di tutto con le notizie. Abbiamo già annunciato qualcuno, abbiamo annunciato di Balotelli, di Berlusconi. Invece dobbiamo parlare di una notizia molto importante che è ascolto l'opinione pubblica in questi giorni. Se ne è parlato ovunque. Per chi ancora non lo sapesse, dobbiamo annunciare proprio questa notizia che credo che anche Mentana abbia aperto il tra l'altro è un argomento nuovo, nuovissimo, non abbiamo mai parlato. Noi parliamo sempre di cultura, argomenti. Usciamo dalla radio e partiamo. Parliamo di cultura, parliamo di politica. Questo argomento non l'abbiamo mai trattato, che è il sesso. Io non ci credo comunque che il titolo è quello. Come, scusi, non ho sentito il commento del pubblico. Ah wow, il pubblico non ha mai sentito Partiamo allora dal titolo. Rimangono incastrati mentre fanno sesso. All'arrivo dei soccorsi si scopre che sono parenti. Io credo che tu abbia bisogno di un soccorso malinguistico, però anche. Sì. Fatto molto particolare, quello accaduto sul lago Trasimeno in provincia di Perugia. Ma è Trasimeno e Nescicchio, sai? Eccolo là. Va bene, per chi fosse un ascoltatore nordico. Entri meno. Trasimeno e Nescicchio, sai? Cioè, vabbè, si capisce, cioè, credo, perché entri meno, esci di più. Che non ha senso. Bizzoni già ci ha cancellato da follower. Quindi dai follower. Nel lago Trasimeno in provincia di Perugia dove due focosi amanti sono rimasti incastrati l'uno nell'altro durante una scappatella nell'auto. Entrambi maggiorenni, con la donna di qualche anno più grande, i due si erano messi all'opera nell'autovettura del giovanotto per poi constatare di non riuscire più a liberarsi. Fortunatamente il telefono cellulare era a portata di mano e i due hanno chiamato il 118. Io lo so dov'era, se c'era il vibra con l'inserito. Vabbè, arrivati sul luogo i due hanno intimato subito i soccorritori alla massima discrezionalità. Infatti la notizia la leggiamo in radio. Ma come si sa, quando il paese è piccolo la gente mormora. E così si è venuto a sapere che i due, oltre ad essere legati fisicamente, erano anche legati da una parentela. Il ragazzo era nipote della donna. Nipote, mi auguro, non nonna nipote, ma zia. Immagino, no, erano due giovani. Sia la sorella del papà o della mamma. Maggiorenni, una novantenne magari, sai, è maggiorenne però, è anche bella andata. Sembrerebbe che sia stato necessario l'intervento di un chirurgo per liberare i due, ma forse l'operazione più difficile sarà stata quella di giustificare ai parenti le motivazioni del loro ritardo. Ma secondo te è attendibile la fonte notizia no, shock? La fonte è attendibile perché notizia l'ho trovata shock. Sì, la fonte riportata non è molto attendibile. No. Cioè, con tutto il rispetto, non vorremmo essere querelati da notizie shock. No, ma io va avanti la cosa, perché io l'ho trovata in realtà su un altro quotidiano. Scusa, ho letto la notizia successiva non ci riesco. Tu sai che queste notizie non le seleziono. Io non ci... Cioè, piano, voi piano. Dovete capire una cosa, perché magari la gente pensa lui apre internet e quello che trova. In realtà non è così, perché lui è a casa per 5 giorni. Cioè lui studia, già mercoledì, cerca le notizie. Lui va in giro, ma non hai capito, proprio esce da casa, perché magari a lui sfuggono. Incontro proprio e le chiede persone. Alle persone: senta, ma qual è la cosa più strana accaduta? Chiede, si va a documentare e poi il mercoledì alle 18 è pronto per esporla ai nostri ascoltatori. Una persona dice: sai, una volta un mio amico ha fatto questo. E lui va su internet. Sì, comunque la notizia è veramente fondata. L'ho trovata anche su un altro quotidiano prestigioso. Vorrei aggiungere richiudere un argomento che abbiamo aperto settimana scorsa. Anzi, due settimane perché fa, comunque i famosi c'erano ancora gli ottomani, sì. Ma quando ancora avevano una in c'erano meno. I settimane avevamo aperto la parentesi e l'onorevole Giuseppe Vatinno, quello che doveva andare, esatto, quello che aveva presentato la mozione, un'interrogazione parlamentare alla Camera per le notizie sugli UFO dell'IDV. Perché IDV? IDV Italia dei Valori Uniti. Italia dei Valori Uniti. Capace che oggi cambia nome. Eh no, è con Ingroia. Perché ci sono otto buone ragioni. Il ogni tanto arriva Antonio. Vabbè, basta. È stato, non è stato più candidato dopo aver offeso tutti su Twitter. Ma chi? Vatinno? Vatinno, sì. Aspetta, avevo offeso soprattutto anche quello di Attivissimo. Sì, sì, aveva offeso Paolo, Attivissimo, aveva offeso anche tanti altri utenti normali. Ricordiamolo, che magari la gente che ascolta non sa chi è Paolo Attivissimo. Sì, insomma, Paolo Attivissimo è un blogger, giornalista, cacciatore di bufale, come ama definirsi. Abbiamo avuto il piacere di intervistare qui per quanto riguarda la sonda Curiosity atterrata su Marte. Lui di cui nessuno parlava. Di scienze, sì, infatti non ne parlava nessuno. Mondiali, c'erano gli europei in gli corso. Europei. Sì. E insomma, niente, quindi Vatinno, diciamo, ha avuto una querella con Attivissimo, poi ha offeso un po' di gente per questa sua interrogazione parlamentare sugli UFO, un po' ridicola, ritenuta dai più, e lui per queste offese, insomma, questa critica, offendeva la gente, e l'Italia dei Valori ha deciso di non candidarlo nelle nuove liste, quindi merito. Bellissimo. Dobbiamo dare merito anche ad Ingroia, all'Italia dei Valori. Io direi che è il tempo di ascoltarci un altro pezzo. Sì, sì, sì. Lo dedichiamo a Maria Antonietta, che ci sta ascoltando, credo, dal suo paese, da Ribera, quindi in un'altra provincia, è felice di stare con noi, e noi le dedichiamo di tu, Andrea, qual è? È Some Night dei Fan, le dedichiamo soprattutto ai fan dei Fan. E ci sono i fan dei fan? Potrebbe essere. L'effetto matriosco. Sono famosi. Certo. Magari fan. È possibile. Io direi di ascoltare. Spingitori di cavalieri. Perché? In diretta Michelino in Some Nights. No, quella sta diventando. No, questa è un'altra. Questa è sciarra sciarra musica e chitarra, è un altro pezzo. Come stai, Michelino? Ah, bimbo, sei un bimbo. Bimbo, che bimbo. Bimbo, comunque bimbi. Ma tu come stai? Ah, così così. Ma quanti anni hai che non mi ricordo? 8. Adesso però si è capito perfettamente. 8, incredibilmente. 8. Oh, può essere anche 4. No. 3. Ridillo. 2. 2. Sei tu che hai messo il dubbio. Ho sentito un suono, mi sa che sono. Come, perché boom boom boom boom? 3, 2, 1, boom. 3, 2, 1, boom. Boom boom. Boom boom. Ma tu a carnevale da cosa ti vesti? Da pappa. Da pappa? Che non ti danno a mangiare? Da pappa. Da pappa. Con la bau. Ah, da cane allora. Bau bau. Bau bau. Va bene, abbiamo capito che ti vesti da bau bau. Va bene, questa risata. Sì. Michelino, taci. Cioè, ma perché sto bambino scassa sempre le scatole? Tu lo inviti in radio. Ma tu io potresti non anche posso trattenerlo. Fare niente. Vabbè, tra l'altro, lo metti nel mio sgabello. Nel tuo quindi sgabello. Quindi io posso parlare solo dopo che hai cacciato via il bambino. Sì. Senti, hai una. Bello, vi ho detto insieme, senti. Sì. Vabbè, adesso dopo le notizie serie che hai dato tu, anche se quella della signora io la vorrei dire, però magari la teniamo per dopo. Sì. Sì. Teniamola dopo. L'avete visto il surfista, quel pazzo in Portogallo? C'è stato un tipo che ha battuto da solo il suo record del mondo precedente, ha calcato un'onda alta 27 metri. Cioè, voi dovete vedere la foto. Tu te la sentiresti, Andrea? L'onda di 27 metri? Sì. Direi che è un grande sponsor per l'onda in onda. Quindi l'uomo in onda. L'uomo quello. In onda. Quindi dobbiamo riuscire a contattare quest'uomo di 46 anni, grande surfista americano, e insomma intervistarlo alla radio per sapere se lui veramente, che ha vissuto la grande onda, può darci dei consigli nel programma, tipo mettere l'acqua in studio, visto che c'è l'acquario, cose così. Sì, l'acqua c'è. Come l'acqua c'è? L'acqua c'è. Perché dici l'acqua? L'acquario. Però ride. Era come ride sempre, non preoccuparti. Sì, esatto, esatto. E invece ieri hanno dato per morto, sai chi? Buonasera. No, lui. Ora è. Ma poi lui com'è che si è inserito così? Sì, Vespa, perché? Ma niente, io mi trovo a Milano. Come? Non è possibile. No, ma questo non è Vespa, mi scusi. Antonio, si sente che sei tu? Ma io cercavo di imitare Vespa. Non puoi. Non posso. Non puoi, se no poi la gente pensa che gli altri personaggi li imiti. Allora dobbiamo chiamarlo più tardi, casomai. Dovremmo chiamarlo. Comunque Bruno Vespa, ieri simpaticamente su Wikipedia si è visto comparire data di morte 29 gennaio 2013 a Milano. E lui non sempre si trova a Milano, di solito è a Roma, quindi dice beh, per essere tumulato a Milano ci sta bene. Sì, ma no, la cosa che dice lui, a parte che si è iscritto su Twitter e appositamente ha detto guardate che io sono vivo, tiè, sono qua. Però poi si è chiesto, ma io devo interpretarlo come uno scherzo banale? Oppure qualcuno sapeva che ero a Milano ed è un avvertimento? Intanto la polizia postale ha materiale su cui lavorare, quindi vedremo. A me sembra un pochettino pubblicità. Sta sempre sì. Direi che dobbiamo dire, prima della pubblicità invece che verrà fra poco, il primo dei punti della nostra classifica, sì, dei 10 momenti in cui realizzi di essere diventato irrimediabilmente vecchio. Che a tutti capita nella vita, cioè anche all'età di 18 anni capita di sentirsi vecchio se vedi un bambino di 5. Esatto. Quindi andiamo al decimo posto. Quando torna di moda qualcosa che usavi già nell'adolescenza. Ora capisco cosa deve avere provato mia madre quando sono prepotentemente tornati gli anni 70. Attingevo al suo armadio con avidità ed ingordigia prepontemente. Certo. Come se non ci fosse un domani prepontemente. Invece il domani c'è. E come? E ti vomita prepontemente in faccia le mode del passato. Tipo che sono tornati gli anni 80 e poi gli anni 90, dicono. Il problema è che negli anni 80 e 90 io c'ero, per Dio. E quindi tutte quelle chicche che anni fa cercavo nell'armadio della mia vecchia. Oggi come le posso comodamente recuperare dal mio... della mia vecchia. Oggi le posso comodamente recuperare dal mio. Tristezza infinita. Le camicie di jeans, le cose fluo, i cardigan... Fluo? Perché fluo? Perché fluo. E camouflage, sì. Tutte le cose che ho, anzi, che avevo quando ero un adolescente. Ovviamente Andrea ora ci parlerà dei camouflage. Dei camouflage e le cose fluo soprattutto. Che fluo, sono, perché fluo? Perché fluo è più bello, fluo party, sì, ad esempio, sì, sì. E che oggi sono tornate all'ultimo grido. Non puoi far altro che sentirti un fossile più vecchio dei dinosauri. E se qualche giovincella ti dovesse chiedere wow che fico, dove hai preso quella borsa? No, cioè è totale, tua bozza è di, ma non mi ricordo, in giro. Mentre in realtà è un residuato bellico del tuo armadio, da ragazzina. Desiderio di botox immediato. Però questo è nel caso della donna, nel caso dell'uomo dovremmo anche dirla, cioè. Nel caso, il coso dell'uomo lo sai cos'è? È prepontemente. Giusto, però è arrivato un messaggio, nel frattempo controllerei, mentre vediamo la posizione numero 9, c'è il Bruma che ci saluta. Potrei ascoltare un brano del film American Graffiti 73 Surfing in Somebody? Oppure Happy Birthday Baby, buon compleanno Pupa, il primo brano del film. Del grazie film da non Enzo. Si sa, non si sa del però film. Però dovresti scriverci tanti, il film. Tanti no, no, vabbè, non il è film un... American Graffiti, ah, American 73. Graffiti. Vedremo. Ma questa è una cosa che potrebbe farci sentire prepontemente vecchi. Esatto, quindi noi prepontemente gliela presenteremo. Diciamo che alla posizione numero 9 ci arriviamo dopo, perché adesso è tempo della pubblicità. State con noi. Prepontemente. state con noi prepotentemente. Stai ascoltando L'Onda in Onda. Siamo sparati sto pezzone, Thunderstruck, come caspita si legge dagli AC/DC. Siamo sempre qui con L'Onda in Onda alle 18.37. Perché hai aperto un videogioco, Andrea? Non ho aperto nessun videogioco, è saltato il computer. Ah, è saltato, ho capito. Tutto bene, siamo sempre qui. È bello quando saltano i computer e non si possono... Sì, come canguri. Sì, sì, sì, è bello quando li puoi riprendere. Vogliamo leggere un post su Facebook che ha scritto Roberto Saviano proprio sei minuti fa, l'autore di Gomorra. Ha scritto così, e devo dire che noi condividiamo, posso estenderlo al resto della redazione. Al di là delle intenzioni di ciascuno, spero che Falcone e Borsellino siano lasciati riposare in pace d'ora in poi in questa campagna elettorale. Beh, direi che è un pensiero condivisibile. Noi siamo, vediamo il pubblico che ne pensa in studio. Il pubblico applaude prepotentemente. Assolutamente. Prepotentemente è stato bellissimo. Sì, sì, sì. Perché è stato un incartamento dentro la parola stessa. Sì, no? Sì, sì, sì, è un incartamento tautologico prepotentemente della parola stessa. Sì. Intanto Andrea ha un punto interrogativo stampato prepotentemente sulla fronte. Ma mentre lui sta cercando di sistemare il computer, e ci riuscirà, ne siamo certi. Sì, sì. Noi andiamo avanti con le notizie. Le notizie. Voi siete dei frequentatori di Repubblica.it, del sito? Beh, a me piace tantissimo la barra destra. E io proprio a quella voglio arrivare. Non so, tu vai, Giorgio? Giorgio, intanto saluta al microfono. Cioè, vieni qua e non saluti. Buonasera a tutti. E noi salutiamo Giorgio prepotentemente. Prepotentemente. Prova a risalutarci prepotentemente, Giorgio. Ma prepontemente è abbastanza così. Buonasera a tutti. Già, è un po' più preponte. Sei più preponte. Però mente. Cosa hanno detto? No, wow. non ha gradito. Boh, devi rifarlo, avvicinati di più. Dillo più. Prepontemente. Ricordate. Non è convinto ancora. Vabbè, ci riproverai nella prossima puntata. Bene, se voi frequentate Repubblica.it, come diceva Andrea, avrete notato che c'è una famosa colonna destra, che è soprattutto composta da immagini di signorine in lingerie, da calendari, insomma, da roba di gente svestita. E vero, di Pippa Middleton. Ci sono sempre le foto di Pippa Middleton. È vero, è da quando c'è stato il matrimonio che non manca almeno una volta a settimana una foto della signorina Middleton, della sorella della duchessa di cos'è? Cambridge. Ok. Bene, oggi ho trovato una cosa che ho preferito, devo dire, le cose alle donne. Perché, buongiorno, il risveglio della lontra dormigliona. Credete, c'era una foto di una lontra che si stropicciava gli occhi al risveglio. Cioè, io non ho parole. Ma anche le lontre sì, hanno sì, guarda, sonno. Ma era la terza notizia in alto, buongiorno. L'altra volta invece c'era la foto di una specie di castoro, non so di cosa sia, di un deserto, che vede il leone, gli cade la ghianda dalle mani e scappa. Era praticamente un filmato dolcissimo. Ma non credo che un quotidiano dovrebbe... Ma un quotidiano come Repubblica. Ma infatti su Facebook c'è la fan di... Cioè c'è la pagina dei fan della barra destra di Repubblica. Ah, perché sì? Sì, è diventato ormai uno status symbol. È di come Repubblica. Se la barra destra volesse attirare quelli che, a cui non importa delle notizie importanti. Esatto, quindi esatto. Dice, noi intanto le attiriamo, poi vediamo. Andrea intanto continua a pregare davanti al santuario del suo PC. Giorgio, se tu sai come aiutare Andrea, ovviamente sei il benvenuto. Ma noi andiamo avanti, perché questa è una notizia che potrebbe interessare molti di voi all'ascolto. Il bello della diretta comunque. C'è una nuova... Salta il computer. Sì, esatto, salta il computer e nessuno lo acciuffa. Brumma, potrebbe interessare molto anche te, anche Giorgio che sentiamo, è qui. È nata una nuova applicazione, si chiama Bang with Friends, che si può tradurre in scopa con i tuoi amici. Bang non sì, è sì, spara, il suono onomatopeico di spara. Sì, ma viene utilizzato nello slang americano per dire proprio scopa con i tuoi amici. Capito. Sì, almeno dico, ci si toglie il pensiero di usare mezzucci, giri di parole. Tu contatti un amico, gli mandi, è un po' come il poke, no? Sai quando devi fare a qualcuno: ehi, ciao, io sono qui. Ah, il poke, il ditino il che ditino, attira l'attenzione, esatto, su è come una delle cose più fastidiose nella sì, vita sì, che poi a cosa serve? Inutilizzato, è come, secondo me, un po' il vecchio squillo. Sai quando con i telefonisti c'è lo squillo? No, secondo me è come quelli che ti toccano mentre parlano. Ah, aspetta, Giorgio ha una sua idea. Tu come cosa pensi che voglia dire il poke? Ma un po' il trillo di MSN. Ah, il trillo di MSN. Questa parolaccia si combà. Cioè, potrebbe anche essere, ovviamente. Bene, questo invece tu ha già 20.000 iscritti in una settimana. Qua ci sarebbe wow. Però te lo faccio io live, che sembra quello registrato. E praticamente tu contatti un amico o un'amica e gli dici, cioè, direttamente già contattandola: senti, ma io sono disponibile quando vuoi. E l'altra decide se accettarti o meno. Ecco Giorgio che ha uscito in un attimo live. Giorgio, per favore, non avere premura. Tra l'altro c'è una webcam e si vede. Ha già subito scaricato l'applicazione in questione. Intanto Andrea continua a parlare con il suo PC. Noi che facciamo? Andiamo avanti, ovviamente. Ma sì, vai avanti, anche perché potremmo... C'è un ospite? No, l'ospite arriverà fra un po', appena soprattutto il PC ristabilisce la connessione con il Colle. Perché annunciamolo che avremo il Colle con noi. Ma io ti dirò di più, avremo un altro napoletano oggi. Un altro? Avremo... Il capitano Schettino. Il capitano Schettino. Il capitano Schettino. Addirittura credo voglia in sottofondo la musica o di Love Boat o My Heart Will Go On di Céline Dion, so. Che credo sia poi un po' più a tema. Schettino è fuori e Corona è dentro, dai. Sì, pazzesco, dai, pazzesco. Sì, consiglio, noi tifiamo sempre per Corona. Sì, comunque più tardi davvero sentiremo Schettino. Tifiamo per Corona, anche se insomma ho saputo pure che ha girato banconote false, un po' di tutto. Non è che ha fatto solo l'estorsione, però in fondo sono ragazzi. Va bene, noi che facciamo? Ci ascoltiamo un pezzo e poi subiamo un po' pubblicità, se non sbaglio? Va bene, allora no, non c'è nessuna pubblicità. Non c'è pubblicità, allora ci ascoltiamo semplicemente i Far Off con France Trans 2. Jump. E torniamo subito in diretta. Abbiamo un messaggio che è proprio per te, caro regista. Caro Antonio, complimenti per la trasmissione. Salutami Montemagno e digli che ha una voce sensualissima in radio. A me nessuno mi saluta. Nessuno. Ma tu non conti, Andrea. Quindi ti dicono che ha una voce sensualissima. Grazie a questo ascoltatore. Sì, sì. Ci salutiamo. Ma non lo so. Daniela e Vanna. Potrebbe essere Trice. Ma non lo dico per salvaguardare la tua unità familiare. Allora dicevi, Andrea. No, salutiamo, scusami, anche Daniela e Vanna. Ah, Daniela e Vanna. Vanna che sta per Giovanna. Giovanna la conosco benissimo. Sono due colleghe di medicina. Ciao Daniela, ciao Vanna. E intanto ci scrive Giuseppe che dice: ma chi è il Vizzoni? Il Vizzoni dice che alle sue spalle non c'è un lago, ma il fiume Serchio al ponte del diavolo. Ah, il diavolo, cioè quello di Dio e il diavolo. No, su su Twitter. No, non è lui. Allora salutiamo il fiume Serchio e tutti i Serchioni, quelli che studiano lì attorno, esatto, al fiume. Per fortuna il computer si è ripreso. Possiamo darvi la notizia di cui avevamo parlato. Che è importante, quindi noi speravamo si riprendesse, perché sono notizie, ne va il bene di tutta l'umanità. Vai, Andrea. La donna che lecca e mangia i peli di gatto, meglio freschi, ammette lei. Aspetta, il pubblico cosa dice? Fantastico. Perversione, ossessione, alieni, nessuno lo sa prepondemente. Ma è un cesso, tra l'altro. Ma dai, non puoi dire. È orripilante. Ma dai, ma non è bruttissima. È non è bellissima. È bruttissima. Non è bruttissima. No, no, è orrenda. Vabbè, dai. Compa, sembra la madre di Pan a 90 anni. Sai, Pan di Dragon Ball? Guarda, Pan di Dragon. Guarda, c'è anche la bandana blu. È vero. Ma di certo è una delle manie più strane mai viste sul pianeta Terra. Quale? Leccare peli. Perché è una notizia che è bella da porre. Leccare sempre peli del gatto. Peli del gatto. Si chiama Lisa. E i suoi 15 ma gli occhi blu. Minuti di celebrità sul web finalmente sono arrivati anche per lei. Crazy Cat Lady Lisa però non solo lecca i peli di gatto, ne mangia anche grandi quantità. Cioè, aspetta, Lisa ha soprannome, facciamolo capire. Crazy Cat Lady. Quindi la donna del gatto pazzo. La donna pazza di gatto. Pazza di gatto. Bello, c'è stato un silenzio. Prova a dire pazza di gatto. Pazza di gatto. Perfetto. Attenzione. I migliori però, afferma, sono quelli che lecco appena strappati, freschi, strappati dal gatto. Mi sta venendo da vomitare, compare. Io preferirei uno zerbino. Ma povero gatto, gli strappa i peli. Ma poi dice, tutto vero, provo una sensazione confortante, continua Lisa, ma lo devo ammettere, non ho mai leccato il fondoschiena del mio gatto. Dobbiamo anche ringraziarla per questa bella notizia in più che non sapevamo. E senti, tornando alle notizie invece, quelle un po' più, come dire, terra terra. Sai che la conosci la famosa locandina? Sì? Sì, la famosa locandina del laureato con Dustin Hoffman. Chiaramente, quando c'è lei che si mette le autoreggenti. Bene, non è lei. Come non è lei? Non è lei, non è la protagonista del film, non è la buona cara Anne Bancroft, ma è Sue Ellen, quella famosa per il suo ruolo in Dallas. Non è lei, insomma, la gamba appartiene a Sue Ellen. Non ho mai visto Dallas. Vabbè, dovresti vedere Sue Ellen, gran bella donna, devo dire. Anche, ancora oggi nel Dallas. Gran bella gamba, insomma. Gran bella gamba, sì, sì, è famosa quella scena con Dustin Hoffman lì impietrito davanti alla porta, e lei che si sistema con fare molto sapiente l'autoreggente. Va bene, torniamo alla classifica dei 10 momenti in cui realizzi di essere diventato irrimediabilmente vecchio. Al nono posto abbiamo quando, per farti il prelievo del sangue, smettono di usare l'ago a farfalla. Perché ammettiamolo, anche l'uomo più nerboruto del pianeta, grazie Andrea, si caga un po' addosso per fare il prelievo del sangue. Tu ti caghi addosso, Andrea? Direi di sì, sono anche svenuto. Perché mi hai detto di buttare una chewing gum ed è da 3 ore che sembri una capra? Non sembro una capra. No? Mai. Ma tu oggi sei tranquillo, sai che troverai la dolce, gentile infermerina che ti farà un delicato pizzicottino con l'aghetto a farfallina che non farebbe male nemmeno ad un neonatuccio. E invece ti trovi un donnone giunonico dai modi bruschi che ti maciulla il braccio con un ago grosso come una cannuccia. Lecca i peli di gatto, perché è sempre quella lì, nel vano tentativo di trovarti la vena giusta o di farne un groviera, non si è mai capito. E quando tu, tremante, le chiederai scusi, non può usare l'ago a farfalla, lei ti guarderà con sufficienza e caustica ti risponderà: non siamo a pediatria. Non si è perché diventa poi valermità siciliano. Umiliato, allora la pressione non andiamo a pediatria. Umiliato nel profondo e dolorante, realizzerai che ormai sei un uomo, anzi un morto in piedi, più vecchio dei mutandoni della nonna. Anni di Prozac serviranno per tirarti fuori da questo tunnel. Vabbè, io mi ci sento un pochettino già vecchio così, ma passiamo subito all'ottavo porto. All'ottavo porto. Passiamo all'ottavo Genova. Porto. Allora, dopo Termini, Livorno, abbiamo anche il porto di Genova. Vabbè, dai, l'ottavo posto. Ottavo porto. Ma a me l'ottavo porto. all'ottavo posto, devo dire che mi è successo circa 4-5 anni fa, ma considerando che mio padre a 20 anni era già tutto bianco, mi posso consolare quando scorgi appunto il tuo primo capello bianco. E questa è proprio una mazzata sui denti, cioè noi chiediamo a voi se quando avete scoperto il primo capello bianco è stato brutto, perché tu ti senti troppo giovane, yeah, studi, esci, ti domandi ancora ma che cosa farò da grande, fino a quando un bel giorno, proprio mentre ti stai preparando per la serata della vita, eccolo lì, quel brutto lurido bastardo d'un capello bianco che spunta dalla tua testa lucido, irto, come il pennacchio dei bersaglieri che grida sei vecchio! Come grida? Sei vecchio! Mi era sembrato. Lo fissi imbambolato e provi a dirti qualcosa per calmarti, ma è solo la luce, vero? Io la prima volta ho detto sarà il riflesso del bagno, poi lo tocchi e ci riprovi, non è bianco, è biondo! Eh no, invece è proprio bianco, bianchissimo, candido come il latte, lo strappi come un colpo secco e mentre lo fissi stretto tra le dita ti viene in mente il commento di quella tua amica un po' di tempo fa, non strappare capelli bianchi perché se no ne ricrescono di più! Sempre siciliani sono quando sì, ti parlano assolutamente, ti parla di queste cose, sempre siciliani, di più, come di più, quanti di più, e parte il panico, provi di tutto, gel, lacca, uniposca, qualsiasi cosa che per stasera mi permetta di mantenere un certo distacco dalla cosa, e poi sentendoti debole, fragile come Sansone, pernoti di nascosto il parrucchiere. Tinta nero pece numero 987, grazie. E questo era l'ottavo posto dei 10 momenti in cui realizzi di essere diventato irrimediabilmente vecchio. Giorgio, tu hai trovato prepontemente. Hai trovato il tuo primo capello bianco? Avvicinati bene al microfono. Sì, già un paio d'anni fa, ormai sono diventati una dozzina. Una dozzina, sono li conti quindi, aggiorni il numero. Assolutamente. E come sì, ti senti? Uno con... al mese praticamente. Quindi sei stato un anno fa, uno al mese, tu proprio lo vedi spuntare plof come un fungo. Come ti senti? Vecchio. Secondo te è fascino avere i capelli bianchi oppure vecchiaia più? Vecchiaia, assolutamente vecchiaia. Beh, una botta di ottimismo, sì. Giorgio, noi ti vorremmo sempre in radio con noi per queste frasi. Credo sia il momento di spararci, che dici? Un altro pezzo? Sì, The James Gang con Funk 49. Eppure mi piacerebbe. Eh sì, anche a me. Michelino, vai. Mentre... Michelino. Basta, volevamo sentire solo un attimo Michelino. Siamo sempre qui, le 18:56. Ma di sera che ore sono per la replica? Mezzanotte e mezza. Ma no, perché? Così. È 56 sempre, compa. Pensa che è più facile di prima, perché prima iniziavamo a mezza, invece è uguale, però parte da mezzanotte. Vabbè, poi forse è un po' prima, perché la pubblicità è un po' diversa, di notte saranno 45, comunque siamo lì, siamo lì. Va bene, siamo arrivati, diamo un'altra posizione? Sì, sempre... diamo un'altra posizione perché abbiamo 5 minuti, poi c'è la pubblicità, quindi passiamo alla posizione numero 7 dei 10 momenti in cui realizzi di essere diventato irrimediabilmente vecchio. Perché c'è la foto di Margherita Hack in macchina? Perché non le hanno rinnovato la patente. Infatti il settimo punto è quando devi rinnovare per la prima volta la patente 10 anni dopo averla, averla persa. Presa! Compa! Cioè, 10 anni dopo averla persa! Compa, ho detto la linea giusta! Non puoi, compa, perché se tu scambi la R cambia il senso. Una cosa è verbo prendere, una cosa è perdere. Ma è più bello se la perdi. Compa, non sei normale. Poco fa cos'è che ha detto? Prepontemente. No, l'ottavo porto, compa. Invece è l'ottavo posto. Stai malissimo. Io invito gli ascoltatori a venire qui con un dizionario, con una grammatica, un devoto oli. Devoto oli. È bello, un famoso dizionario. Come il Nous. Come il Nous. Dimmi un altro famoso dizionario italiano. Il Nous. Non è un farmaco. Vabbè. E come un farmaco? Un farmaco. Ah, vero, quello di. No, perché lui parlava di una cosa e di un'altra, giusto? Perché lui ieri mi ha chiesto consigli per l'aerosol. Mi ha detto, ma che cosa posso fare? Il Nous. Vabbè, questo è un momento critico per tutti noi, ovviamente il settimo posto. Non lo vuoi ripetere il settimo posto cortesemente? Quando grazie. Devi rinnovare per la prima volta la patente 10 anni dopo averla presa. Grazie, Andrea. Questo è un momento critico per tutti noi, nessuno escluso. Nemmeno quelli che sono già vecchi dentro, nemmeno quelli consapevoli ed equilibrati. Ti sembra ieri che hai fatto l'esame di pratica? Io ho e paura. Adesso sei lì in fila ad aspettare pazientemente il tuo turno nella sala d'attesa dell'autoscuola mentre gli sbarbini ripassano il codice della strada per l'esame di teoria. Però non puoi mettermi ansia. No, io ce l'ho, ma non vedo l'ora che finisci, perché io, guardate il webcam, io soffro, c'ho la cella pezzata, c'ho la laguna pezzata. Vai. Ti rosichi le unghie. Ti rosichi. Perché rosicare è un'altra cosa. Sta a rosicare, è Roma. Lo vedi? Stava a Roma. Fai schifo. Le unghie fino all'osso, poi entri, rifai le solita fusissima. Non è fusissima, non ha fumato. Pseudo visita medica. Paghi e ti dicono: riceverà a casa la strisciolina da attaccare sulla patente. Io se piango non leggo. Ma poi dice la strisciolina. Ma perché non la strisciolina? Roba che fino a ieri mi sentivo già avantissimo, perché ero stato tra i primi ad avere la patente di plastica e non più quell'affare enorme di carta rosa. Strippi è giusto, perché devi strippare. Ti senti di colpo gli anni di Matusalemme. Accendi la macchina senza nemmeno accorgertene. Stai andando a 30 all'ora, come i vecchietti sul pandino. Dovrai pesantemente berci su. Ah, prepontemente ce non puoi fare. Io piango, se ho le lacrime agli occhi, sì, non vedo. A nello noi schermo. Viene da piangere, a noi. Non ce la quanto faccio. Tempo abbiamo non ce la potrò fare mai. Ma niente. Niente, andiamo subito in pubblicità e poi state con noi perché avremo l'intervista di oggi con un grandissimo artista palermitano che si chiama Niccolò Carnelli. Quindi stay tuned on Radio Panorama. Ciao! Stai ascoltando L'Onda in Onda. Yeah. Ed eccoci tornati in diretta qui, l'onda in onda, sempre Radio Panorama. È cambiato il conduttore. Improvvisamente, come potete vedere se siete alla webcam, non c'è più Andrea, ma c'è Giorgio. Giorgio, fatti benissimo, si è girato il microfono. Giorgio, dai un segno di te. Buonasera di nuovo. Ma tu ti metti più vicino, perché noi non sentiamo la tua voce. Ok, ora si sente. Adesso sassa. Sì, vedi, è bravo a fare radio. Di Sassa prova. Sassa prova. Sassari. Sassari. Sei molto bravo a dire Sassari. Va bene, sarebbe bello continuare questa serie di stronzate incredibili. Ma mi dicono dalla regia che abbiamo già in onda. Diamo il benvenuto a Nicolò Carnesi. Ciao Nicolò. Ciao, ciao a tutti. Come va, carissimo? Benissimo, potevate continuare a dire quelle stronzate, così io stavo solo in ascolto. Ah, così ti... Ah, bene, se ti stavi divertendo, questo ci fa molto molto piacere. Allora aspetta, ne diciamo solo un'altra. Sassuolo. Sassuolo. Benissimo, io l'ho già assunto, ho cambiato subito co-conduttore. Sì, perché Andrea in questo momento ha dei bisogni impellenti fisiologici e abbiamo un amico qui accanto a noi. Allora Nicolò, dove ti trovi in questo momento? A Bologna. A Bologna, wow, sei lì per registrare, per tour, per cosa? Domani in realtà tornerò a Roma. In questo momento sto registrando una canzone per una compilation, una cosa speciale insomma su Lucio Dalla. Ah, fantastico. Una sorta di tributo cantando una canzone. Bellissimo. Ma è un tributo, scusami, che andrà su disco con altri artisti, diciamo, della scena indipendente? Com'è combinata questa cosa? Esattamente. No, non posso dire altro perché credo che ancora non sia uscito nulla. Però dai, per Radio Panorama un piccolo strappo si può fare. Dai, qualcosina. No, posso dire altro. Non so bene tutto. Io sono qui a Bologna a registrare, insomma, mi godo un po' la città, visto che avevo sempre vista molto bella molto, Bologna, molto bella, sì, passando sì. Solo tipo per i concerti, e quindi mi sono fermato qui per 3 giorni. Allora mi viene spontaneo farti una domanda prima di parlare direttamente della tua musica. Qual è l'ultimo concerto che hai visto? Non per forza a Bologna, proprio l'ultimo che hai visto. L'ultimo concerto che ho visto mi sa che è stato a Milano, e sono i Bed for Lashes. Ah, che devo confessare non conosco. Che genere fanno? E fanno una indie pop elettronico. Ah, mettiamola così. Bene. Facciamo il polpettone che va di moda per ora. Un polpettone. Vabbè, però se il polpettone sei bravo a farlo è sempre buono. Questo c'è da dirlo, no. Che se il polpettone è fatto bene. Sì, no, parlavo del polpettone di etichette, diciamo. Per ok, sì, ascoltato. Un po' tutto. Ah, ok. Mi sto ripetendo. Sì, no, sì, sì, sì. È stato molto, molto bello. Sì, lei sì, è bravissima, sì. È una ragazza. Ah, molto perfetto. Giovane. Che comunque già di fama mondiale. Io penso li avevo visti la prima volta in apertura ai Radiohead, quindi ah, non parliamo porca di miseria. Stiamo parlando allora di il Radiohead che hai visto a Bologna per caso? A Milano. Ah, sempre a Milano. Ah, era in apertura. Ok, va bene, tutto chiaro. Senti Nicolò, tu sei di Palermo, nostro coetaneo, perché se non sbaglio sei sul 25-26 anni, sbaglio? Esattamente 25. Esatto, e noi ne abbiamo qui 26-25, quindi siamo proprio coetanei. Quando hai iniziato a suonare? Più o meno a che età? Ma dipende come si intende, perché io ho cominciato tipo a battere sulle cose a 3 anni, cioè avevo una batteria finta di Topolino, le mie pentole, quindi... Hai cominciato lì a menare duro. Esatto, proprio a dare fastidio a tutti. Benissimo. E poi man mano ho continuato a fare questa cosa, ho imparato il pianoforte perché ce n'era una a casa, e ho cominciato a scrivere le prime cose. Poi ho comprato una chitarra elettrica. Stranamente sono il processo non è stato quello tipico che ti compri la classica o l'acustica e ti fai gli accordi. Io ho preso l'elettrica e direttamente mi suonavo tipo il riff dei Cure con il delay. Ah, perfetto, proprio sei andato completamente al contrario, stravolgendo quello che di solito è, chiamiamolo, l'iter della carriera di un musicista, o comunque del suo approccio alla musica. Sì. Anche perché comunque ero avvantaggiato a livello sia armonico, visto che suonavo il piano, suonavo già la batteria, quindi la chitarra è anche uno strumento ritmico. Devo dire che è stato abbastanza facile. Bene, non senti... sono un professionista della chitarra di nessun strumento, perché semplicemente sono, secondo me, una sorta di allungamento per arrivare al risultato. Cioè non sono io un buon musicista. Non sei, diciamo, un virtuosista della chitarra, no, o comunque no. Qualcuno che ha una grande tecnica, però. Esatto. Vabbè, però io a scrivere le cose. Sono sempre dell'idea che, come il grandissimo Lucio Battisti, non era un grande, insomma, non aveva grandissima tecnica vocale, però riusciva a dare delle emozioni pazzesche, che forse nemmeno 30 anni di conservatorio e di studio di canto possono darti. Lo stesso può avvenire con qualsiasi altro strumento che non sia la voce. Ma io l'ho sempre pensato così. i musicisti che preferisco, anche cantanti, di solito non sono un granché tecnicamente. Se pensiamo a Bob Dylan, sì, esatto, se pensiamo a Neil Young, che è uno dei miei preferiti, ma anche allo stesso Robert Smith, che tutto si può dire meno che abbia una grande tecnica vocale, sì. Sì, esatto. sì. Però hanno quella cosa in più, quel modo di cantare le proprie canzoni che poi è favoloso, cioè, è tutto loro e non si assomiglia a nessun'altra scuola di canto. Senti, ma tu esci il sabato di solito o come gli eroi non esci il sabato? Cosa fai? No, no, di solito esco perché non mi ritengo assolutamente un eroe. Non ti ritieni un eroe, ho capito. Però racconti nel tuo disco, appunto, che ha titolo Gli eroi non escono il sabato, il tuo disco d'esordio, racconti che umanità racconti, su cosa ti sei concentrato di più? Ma racconto quella, cioè, di te praticamente dell'altro tipo di Sassari e di Sassuolo. Ah, ok, no, racconti di noi, bene. Della mia generazione, no? Più o meno, perché fondamentalmente è quella che conosco meglio. Non è che mi posso mettere a scrivere di gente di 60 anni basandoti sui racconti, la propria giovinezza, no? Certo. Negli anni 70, per dire. Sì. Io scrivo quello che vedo e quello che frequento, che fondamentalmente è più o meno quel giro di età. Quindi sicuramente le cose le ho prese più da così dal tuo vissuto più intimo, più vicino a te. Ma senti, gli altri musicisti che collaborano con te sono corregionali o ci sono anche, diciamo, delle presenze, chiamiamole estere o comunque del resto della penisola? Sono tutti siciliani? Diciamo, i ragazzi che girano con me ai concerti sono tutti siciliani. Poi ho avuto collaborazioni varie da altre parti d'Italia, però la band, diciamo, fissa, i concerti e tutta sicula, sono siciliani 100% proprio, no, namerudda, come diciamo noi proprio in siciliano, esatto. Nel midollo. Senti un po', noi stiamo ascoltando nel frattempo in sottofondo Il Colpo, che è uno dei pezzi dell'album. C'è qualcuno a cui tu sei legato in particolare di quest'album? Lo chiediamo sempre agli intervistati. Una canzone in particolare? Sì, la prima che ti viene in mente magari in questo periodo, non per forza la tua, perché è come scegliere tra un figlio, cioè sicuramente immagino che queste 11 canzoni siano il frutto di una ricerca e di una selezione, quindi non ti voglio. Quello a cui sono più legato, così, se ci devo pensare poco, dirtelo, è Penelope Spara, che Penelope è Spara. Il lentone del disco, il pezzo quello più rilassato, piano e voce all'inizio. Benissimo, quindi sono affezionato. Lo segniamo, anche se noi ascolteremo un altro brano adesso, appena concluderemo con te l'intervista, per i nostri ascoltatori qui dell'Onda in Onda. Senti, al momento ti trovi a Bologna, quindi per questo progetto, posso chiederti che pezzo di Lucio Dalla canterai in concerto? Cioè, scusami, sul disco? Disperato Erotico Stomp. Bellissima, Disperato Erotico Stomp, noi l'abbiamo passata e ne abbiamo parlato tanto tra le canzoni, diciamo, innovative. È una quindi canzone che io ho fatto puntualmente dal vivo da molti anni, la prima che uscisse il mio disco. Quindi ti è risultato, diciamo, facile ritrovarti lì, sì, a farla ancora, bellissimo. Assolutamente sì. È un gran pezzo che noi dell'Onda in Onda amiamo e abbiamo passato più di una volta. Senti, un motivo per comprare il tuo disco e dopodiché ci lasciamo e ascoltiamo un altro pezzo del tuo album. Un motivo? Posso dare 10.000 motivi per non farlo, però Bene. Mi chiedere di farmi la marchetta. Non ti farei la marchetta? Cioè, volevo fartela fare. Se siete curiosi, non lo so. Se siete curiosi, compratelo. Lo comprerò. Allora, insomma, a me in realtà potete fare quello che volete, ecco. O lo ascoltate su YouTube, se vi piace lo comprate, se non vi piace mi mandate un'email e mi insultate. Perfetto, allora dacci la tua email, dacci la tua mail a questo punto. No, l'email privata no, però vi do il link per potermi mandare. Perfetto, email, dacci il link, diciamo, dacci commenti link. Pubblici. Facciamo questo gioco, magari riceverai 2 miliardi di complimenti o vediamo come andrà, poi magari ci risentiamo e ce lo racconto. Basta digitare facebook.com/Carnesi Nicolò. Però la O senza accento finale, perché sapete, con l'HTML non si può fare. Esatto. E niente, lì ci sono, potete scrivermi, potete fare quello che volete, insultarmi. Perfetto, va bene. Mandarmi cuori, quello che volete. Lettere d'amore, insomma, proporti di uscire a Bologna. Va bene, noi ringraziamo tantissimo, sei stato simpaticissimo, Nicolò, e poi sei un conterraneo, anzi un compaesano, diciamo così, concittadino. E allora ci salutiamo e ascoltiamo adesso un altro pezzo del tuo album, Gli eroi non escono il sabato, Ho poca fantasia. Grazie Nicolò. Grazie a voi, ciao. Ciao. Ciao Nicolò. E che cosa vuoi? Cioè, no, io ancora a me piace aprirti il microfono. Io a me piace aprirti un'altra cosa, però no, te lo dico dopo. No, ma ricordiamo che è l'1 e 20 della notte, perché ci ascolta di notte. Quindi è l'1 e 20 della notte. Quindi lo puoi dire solo in replica. Ma siccome ah già, è vero, puoi dirlo solo in replica. È giusto. Non è giusto, è giusto cosa? Te lo chiedo solo. Non ho capito. Mi hanno distratto. Comunque, siamo tornati qui dopo questa intervista mega galattica. Quindi ricordiamo l'indirizzo: facebook.com/carnesinicolo. Perché ovviamente per le regole dell'HTML non si può mettere l'accento. Se ci sta ancora ascoltando, noi lo salutiamo e speriamo che tutti vadano ad ascoltare i suoi pezzi. Noi ne abbiamo passati un paio fino a pochi secondi fa. E potrete appunto dire la vostra mandando gli insulti. Fare quello che volete. Sì, lui l'ha detto. A me non interessa. Fate quello che volete. Se siete curiosi, comprate il disco. Se no, andate. Comunque, simpatico. No, era simpatico. Dovremmo riprendere la nostra classifica dei 10 momenti in cui realizzi di essere diventato irrimediabilmente vecchio. Al sesto posto, quando. O al sesto porto. O al sesto porto, che è quello di Genova. Sì, cosa avevo detto prima? Pisa. Persa. Invece di presa, persa. Quando ti sbronzi e ci metti giorni per ripigliarti. Serata esagerata, hai ballato, intanto Andrea sta morendo, io leggo, hai cantato e soprattutto ti sei scolato l'inverosimile al banco del bar, roba che hai speso più soldi tu ieri sera che Berlusconi per trombarsi Ruby. Cifre importanti, insomma, gli amici ti hanno riportato a casa e dopo esserti concesso un significativo numero di pit stop al cesso, butti giù un'aspirina, sgargarozzi parecchia acqua e pensi che in poche ore sarai a posto, ci sei già passato mille volte. Perché sempre questo siciliano? E invece no! E no! La mattina dopo ti risvegli devastato nel corpo e nell'anima, bocca impastata che manco avessi pasteggiato a sabbia e ghiaia. Wow. Occhi crepati di sangue, colorito verdognolo, fiato da leone, perché ormai sei un rottame, il fisico non ti risponde più come quando avevi 18 anni e potevi scolarti una cassa di amaro del capo ed essere fresco come una rosa appena dopo aver sbrattato. No, non più. La schiena ti fa un male atroce, tanto da chiederti se per caso la sera precedente fossi stato assalito dalla stessa mandria di gnocchi e uccise Mufasa. Povero Mufasa. La testa ti rimbomba come se avessi dormito nella capanna. Nella campana! Campana di Rovereto! Cavolo! Eravamo lì! Campana! La capanna di Rovereto potrebbe essere. Zero! Wow! E dentro di te si fa spazio una sola domanda: perché mi sono acconciato così? Che oggi devo andare a lavorare? E te lo dici, lo ammetti a te stesso: non hai più l'età. Non ho l'età. Esatto. Ma passiamo subito al quinto posto, perché poi abbiamo una brevissima notizia da dare. È l'intervista col nostro Marco di Film Brutti. Esatto. E che ci delizierà. Cosa è l'intervista da dare? Intervista, notizia ho detto. Ah, notizia, io sentivo intervista. No, intervista dopo con Marco di Film Brutti. Ah, ok. Quinto posto è i 10 momenti in cui ti realizzi di essere diventato irrimediabilmente vecchio. Se mi fai ridere, io non riesco. Stasera la riascolto e piangerò, io lo so. Quinto posto, quando a luna hai già sonno e poi ti svegli presto la domenica senza aver puntato neanche una cazzo di sveglia. Non c'è niente da fare, gli anni passano, l'autonomia diminuisce, la regola. Difatti capita che alle 23:20 di sabato, contrariamente ad ogni previsione, si ti salva l'abbiocco della vita. Non importa in quale divertentissima spassosa attività tu fossi impegnato, a un certo punto ti sale la morte nel cuore e le palpebre ti cadono svenute sugli zigomi. Cerchi di darti un tono fino almeno a luna, ordinando da bere, magari ballando, chiacchierando ancora un po'. A luna scoccata ti senti legittimato a filartela come il peggiore dei codardi, butti lì una frase tipo: oh raga, io scappo che domani mi devo svegliare presto, ho lavorato tutto il giorno, ho chiamato una tipa con cui sto uscendo, la devo proprio andare. Sto sempre siciliano. Sì, come se i tuoi amici non sapessero chi sei e che vita fai, ma soprattutto come se non conoscessero l'espressione che fai quando menti, caro il mio pollo. Il tutto semplicemente perché ti vergogni come un ladro ad ammettere che sei stanco, morto, praticamente uno zero. Arrivato a casa, zompi sul letto con la stessa agilità di Yuri Keiki e ti dici: cazzo, ma me la dormo fino alle 3 del pomeriggio? E chi si è visto? Si è visto, fotte sega. Invece track, alle 7:03 del mattino ti svegli pimpante, iperattivo, come se ti fossi fatto di acidi e ti vengono in mente i tuoi nonni che alle 5 del mattino erano già su, belli allegri, a fare le loro robine. I tempi delle ronfate mattutine ti sembrano lontanissimi e realizzi ciò che in cuor tuo già sapevi: sei semplicemente vecchio. E voi vi sentite così vecchi? Non lo sappiamo, ma arriviamo al quarto posto e poi lasciamo il podio per la fine della puntata, quando gli argomenti più gettonati nelle serate tra amici diventano il mutuo ed il piano pensionistico. Ma dico che a noi non interessa però molto questa, dai, è molto più là questa qui. Ma se ti senti irrimediabilmente vecchio. Lo so, ma la vita in provincia è sempre la stessa: un cinema, una birra, quattro chiacchiere tra amici, ad andare bene una pizza. Lo cantava anche il Bock Max Pezzali in Weekend. Qual è Weekend? È da per finire un altro weekend. Oh, se ne va quel cuore. Aspetta, come la canterebbe Michelino? È la dolcezza fatta a bambino. È un bambino. Ma poi non gli mettiamo più la ninna nanna e lui non va a dormire, il carignone. Vabbè, taci. E a noi in tutta onestà tirare l'alba a chiacchierare piace una cifra. E così ti ritrovi mollemente disteso sul divano del tuo amico di sempre a bere una morettona ghiacciata. Finché a un certo punto esci dal torpore del fumo e la sigaretta e realizzi tutto d'un botto che gli amici intorno a te hanno iniziato a parlare di cose tipo il mutuo, il piano pensionistico, la convivenza, il contratto a tempo determinato, fare un figlio, affogherai lo sconforto in litri e litri di Lexotan. Michelino, io non lo sopporto più, non portatelo fuori da questo studio. Un deficiente, un deficiente. Senti, ma riusciamo a collegarci? Ah no, prima una canzone e poi non so se ci colleghiamo col Capitan Schettino o con Napolitano. Vabbè, vedremo più avanti. Ci ascoltiamo adesso un altro pezzo, gli Zen Circus, questo mi piace molto, è Nati per Subire. Solamente per accudire gli altri, nata con la voglia a questi altri di spararmi, nata consapevole di essere una donna, che un minuto dopo le han già messo sulla gonna, nata di incazzata come solo certi avrei, nata già malata di ogni male che hanno i suoi, sei nata per subire, te lo ricordi ogni mattina, non mangi ormai da mesi. Per restare bambina, la curiosità è donna, il potere degli eroi, la curiosità è di tutti, affanculo gli eroi. Ascoltando L'Onda in Onda. Beh, bella guè, anche se non leggerai mai. Ti ascolto sempre per dimenticarmi dei guai. Ieri volevo una foto nel locale, sei scappato. A me quest'anno è andata male, mi hanno ribocciato. Figurati se hai tempo per me, che chissà quanti soldi ti sei fatto col rap. Quando sono al campetto segno e mi sento un re, ma è solo un sogno e sento che non farò mai il cash. E con le cuffie sto all'ultimo banco, rido il computer in bianco. Di tutto quello che dice mio padre sono stanco, che devo lavorare e non pensare a ste cazzate. L'altra sera poi siamo arrivati alle mazzate. Ne ho appena fatti 20, già troppi sbattimenti. Ho rotto i legamenti, addio gli allenamenti. Mi resti solo tu, se son giù. A me basta vederti in TV o su YouTube. Ti chiedo solamente una firma per la mia tipa che non ha finito la quinta, perché è rimasta incinta e dopo che ha abortito non è presa tanto bene. Fa, mandale un saluto, pensa a lei quanto ci tiene. Io sto, ma i sogni fanno Salutiamo Stefania, la mia ragazza che ci sta ascoltando da Palermo, e Roberto che sta lavorando in Viale Regione Siciliana nel suo studio. Quindi ciao Stefania e ciao Roberto. Sembrava proprio in mezzo alla strada, cioè no, non in mezzo alla strada. No, no, no, ha uno studio, credo a un piano, non so qual è il piano, però credo abbia un piano. L'hai capita? Ha un piano. Ha un piano? Sì, ha un piano. Non l'hai capito. Forte? Anche, no, no, non scadiamo. Va bene, la signora Rosa invece non la saluto. E, senti, tua mamma come sta, Andrea? Ma bene, bene. Ma a proposito di scadenza, ma a proposito di scadenza, c'è una persona che ci sta chiamando, con la quale abbiamo avuto un rapporto telefonico. Un produttore di yogurt? No. In scadenza? No, no, no, no, no, no. Un rapporto latte? Telefonico? No. Un rapporto telefonico molto vivo in sì. Durante la nostra conduzione nella vecchia radio in cui eravamo, in questa nuova radio, Radio Panorama. Diciamo, ci dispiace un pochettino e sappiamo che dovremmo lasciarlo dopo la scadenza del suo mandato. Ma ancora è lì, vivo e vegeto, attaccato alla sua io poltrona. Io mi toccherei fosse lui, vabbè. Attaccato soprattutto alla sua poltrona, che diciamo neanche la posizione, no, la posizione che è attaccato, non lui attaccato, ma diciamo che regge ancora il suo ruolo, il suo mandato è attivo. No, Andrea sta cercando vicino la scappare scadenza, però, vicino alla scadenza, ma diciamo il ruolo importante, l'istituzione più importante di tutta la nostra Repubblica, garante della Costituzione, il Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, con il quale siamo già collegati, so che è al telefono con noi. Popporo, popporo, eccolo, popporo, ed eccolo, popporo. Entra proprio popporo, come vuole lui, popporo, popporo, popporo, senza salutare. Popporo, popporo, popporo, popporo. Presidente, popporo, po, abbiamo popporo, Presidente, popporo, Presidente, non mi faccia fare, popporo, no, come... Io popporo. Lei popporo cosa, Presidente? Regia, mi abbassate un po' così il Presidente parla. Presidente, come ma non è lei, Presidente. Buonasera, Presidente. Mi sono innamorato di... Lei non saluta, Presidente? No. Come no? Io perché posso. No? Ma lei può cosa? Negli ultimi mesi di mandato mi hanno detto che posso anche non salutare. Ma perché, Presidente? Mi hanno detto di parlare piano. Piano? Di cadenzare ogni parola. Sì. Di non dire cose se non le credo. In che senso? Perché lei dice cose se non le credo. Ogni tanto mi dicono di dire cose in cui non credo. Ma lei replica tipo che... io non credo nella Nutella. Lei non crede nella Nutella? Ma perché? No. Perché penso che in realtà non è fatta di nocciole. Ma come? Ma è una cosa ridicola. Arachidi. Arachidi? Ma sono le stesse cose, Presidente. Lei più o meno. Ecco, cioè, lei è un altro... Più o meno. Lei è plagiato. Ma lei crede nella Basilicata, ad esempio? Da qualche anno sì. Da qualche anno ma ci non crede. Ho mai creduto nel Molise. Nel Molise. Sì. Nel Molise lei non ci crede. Io la penso come Pascal. Sa che è nato un gruppo regioni... su Facebook in cui la gente... Stavo per dire infatti che io credo nella frase esistono regioni che la ragione non conosce. Sì. Il Molise è uno di quelli. Il Molise è uno di quelli. Presidente, senta, ma allora è un po' che non ci sentivamo, la ringraziamo per averci telefonato qui a Radio Panorama. Era veramente tanto, mi era mancavate molto, molto, parecchio, molto. Sono veramente... Ma abbiamo notato il periodo era quello che era, insomma, molte difficoltà. Senta, una domanda a bruciapelo. Lei cosa ne pensa di questo scandalo Alessandro del Monte dei Paschi di Siena. Ma guardi, io tengo praticamente il mio conto corrente da un'altra privato, banca. Privato? Privato. Lo tengo un'altra banda. Un'altra sì, banda? In una banda. Ah, in una banda? Di paese. L'ho conservata, nella Gran Cassa, San Giuco de Pelpa. Ma che paese è? È vicino ai monti dell'altopiano degli Pirenei. Ma se l'hai inventato? Assolutamente no. San Giuco de Pelpa. Ma fanno davvero? Fanno un caciucco che altro che Livorno. Ma verificheremo, presidente. Comunque, insomma, cercato. Al di là dei suoi risparmi, voglio dire, cosa ne pensa del monte? Come non gliene fatto niente? Ah, perché ha detto che è gravissima come ovviamente cosa. Perché c'è gente che è sull'astrico. Ho visto una signora sulla lastra addirittura, ma cioè, che, di ghiaccio, ma quando, cioè, buttata fuori. Ma quando? Ieri. Ma perché? Cosa c'è da Monte dei Paschi? Niente, presidente. Le hanno, scusate, un colpo di tosse. Le hanno pignorato la casa. Chi? Il Monte dei Paschi? Ma non credo, perché cioè, il Monte dei Paschi sta a me la signora mi ha detto di sì. Ma vabbè, senta, al di là di questo, sì, dico politicamente, forse non ho capito no, bene il ruolo del Partito Democratico, sì, le cosa ne pensa? Penso questo, che Bersani, che controllava con le fondazioni, no, le nomine all'interno del Monte dei Paschi. Quindi la mala gestione, questi soldi portati all'estero. Ma lei ne sa più di me, dico, se no, dico, presidente, è interessante. Vorremmo sapere il suo a me piacerebbe sentirla parlare ancora per ore. Perché? Perché ne sa più di me. Ma non può dire questo in realtà. Allora, io credo in... allora, parliamo io credo cosa, in Pierluigi, presidente. Io credo in Pierluigi Bersani. Ma non può fare questo endorsement a Bersani. A parte che io non ho orsi in casa, comunque. No, l'endorsement, no? Che cioè, cos'è? Quando lei, una pubblicità, una marchetta. Sì, è una marchetta. È una marchetta. Allora, dica marchetta. Cioè, queste parole. Al di là di questo, presidente, non capisco. Parliamo di un'altra cosa. Ha dichiarato che è scandaloso la frase di Berlusconi. Sì, sul nazismo. Sul nazismo. No, fascismo. Vede, l'ho colto impreparato. No, ma dico, va bene. Era alla no, alla giornata della memoria per il nazismo, cioè per le vittime del nazismo. Lei si ricorda che io sono un buon imitatore di Silvio. Ah, sì. A quando pare lui ha detto. Scusate, ma se posso dirlo, cioè, ha sbagliato delle cose, però ne ha fatte tante, figa, molto belle. Non credo sia proprio così. Io anche ricordo che aveva parlato così. Mezzo, vabbè, figa, lo mettono ovunque, come a Palermo dite mi. No. Mi. Mi, no, no, vabbè, era sfaccato, non è una parolaccia. Non è una parola. A Napoli come dite? Presidente? Aspetta un po', non ci penso più. Inchia. Arrivo quando meno t'aspetti. A Napoli diciamo, uè. Az. Presidente, capisco. Senta, quindi queste frasi sul fascismo lei vuole perché fare? Perché il regista munge l'aria. No, che ne sa lei, presidente? Ma perché vedo la web? Ah, lei vede la web. Ho detto, oh, munge la... Ma lei come sta quando è messo lì al collo? Dove ci vede? Al computer? L'ha messo sulle gambe? Com'è? Ha presente la stanza in cui faccio il messaggio agli italiani unificato, a Capodanno. Non c'entra niente. Niente. No, era per lei, vedere dov'è? Se la prepara. In bagno? No, vicino. L'anticamera del bagno. L'anticamera del bagno. Spogliatoio, io diciamo mi metto spogliatoio, sì, sì, o spogliatoio, sì, capisco. Mentre Clio si ridà una controllatina ai pneumatici, io guardo. Comunque, vorrei dire, non ci sentiamo dall'anno scorso. Il messaggio di Capodanno è stato veramente importante. Mi è piaciuto, qual è stato? Mi sono parola commosso. Chiave. Ma quando ha fatto, letto quei quattro passi della lettera della signora che le ha scritto, è stato lei molto. È un molto, attento osservatore. Molto, molto interessante, presidente. Ma come si sente aver fatto l'ultimo messaggio di Capodanno? Andando per sé per nome tocco. No, l'ultimo del suo mandato da e presidente. Se dovesse cambiare la Costituzione diventano 10 gli anni di mandato. Senta, ma guardi, facciamo un pronostico. Chi sarà il nuovo presidente della Repubblica? Io già lo so, non c'è un pronostico. Chi è? Mia moglie. Ma come sua moglie? Clio. La prima donna, diciamo. La prima donna. Perché ci sta scritto che non può essere una donna. No, dico, per la prima volta una potrebbe donna presidente della Repubblica. Io dico o mia moglie. Sua moglie. Oppure Renzi. Renzi. Mi sa della Renzi. Persona anziana che ha vissuto la politica, che ne capisce. Ma... cioè. O rottamatore. Non credo. Io credo di sì. Ma vedremo, o presidente. O Renzi. Presidente, guardi, dobbiamo staccare il collegamento perché dobbiamo passare subito al prossimo pezzo. La ringraziamo per essere stato qui con noi. No, sono io che me ne vado. Non stacca proprio niente. No. Arrivederci. Non avrei mai voluto. Viva l'Italia. Arrivederci. Viva il caciucco. Presidente, arrivederci. Noi la salutiamo. Restate con noi perché subito dopo il pezzo dei Luminers ci sarà l'intervista con Marco dei Film Brutti. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed, hey! Sleeping in my bed, hey! So show me family, hey! All the blood that I will bleed, hey! I don't know where I belong, hey! I don't know where I went wrong, hey! But I can write. You belong with me, my sweetheart. Credi di avere un'anima nera? Ti senti destinato alla dannazione eterna? Redimiti col film brutto della settimana. Ed è in diretta con noi Marco, ciao, come stai? Benissimo, ciao grandissimi, come state? Ciao, ciao Marco, benissimo, importante come stai tu, perché devi deliziarci con i tuoi bellissimi e bruttissimi film brutti della settimana. Intanto non ho salutato ancora Marco, ciao Marco anche da parte mia, cioè parlava ciao, soltanto lui. Ciao, ciao, ciao, ciao, vai, vai, vai. Trovarvi. Lo so, noi siamo l'appuntamento fisso del mercoledì, non puoi più farne a meno. Assolutamente no. Assolutamente noi non possiamo più fare a meno di te. Allora, parlaci di questo film della settimana per autopunirci. Allora, questa sera torniamo sul genere post-atomico con un titolo di Castellari che è 1990, I guerrieri del Bronx. È un film, diciamo, interessante soprattutto, diciamo, per l'idea che è quella, diciamo, di unire un po', diciamo, le sceneggiature di Guerrieri della Notte e 1997 Fuga da New York. Diciamo che come idea non è male. Con Jena Pliskin, ricordiamo. Sì, diciamo, c'è appunto un emulo di Jena Pliskin che si chiama Trash, diciamo, non si prende nemmeno tanto sul serio. Esattamente, esattamente, penso che la cosa sia anche un po' voluta da un certo punto di vista. Ma purtroppo, diciamo, come diciamo, il film non mantiene però quelle che sono, diciamo, le violente promesse, diciamo, della trama, insomma, perché poi alla fine, diciamo, non ci sono scene particolarmente esilaranti, esatto, non ci sono combattimenti particolarmente curati, ecco, tutto si risolve con qualche scazzottata, diciamo, molto tirata via, e penso che il budget a disposizione di Castellari in questo caso fosse veramente, veramente minimo, e penso che se sia speso tutto per i costumi, che quelli sì sono effettivamente abbastanza esilaranti, e per, diciamo, le classiche motociclette immancabili, certo, le post-atomiche, sì sì, quelle per fuggire, diciamo, da qualsiasi altro attacco. Esattamente, e diciamo spiccano quelle chiaramente della banda di cui fa parte Trash, che sono tutte, diciamo, agghindate con un ridicolissimo teschio di plastica, tipo quelli che vendono per Halloween, per intendersi. Veramente, veramente bruttissimo. Diciamo, la trama è molto semplice, diciamo, c'è una ricca ragazza che è la figlia del boss di una corporazione futuristica, diciamo, che sta per compiere 18 anni, anche se ne dimostra, diciamo, qualcuno di più, però fugge, diciamo, schifata dallo strapotere delle corporazioni del futuro, decide di fuggire saggiamente nel Bronx, che è una terra di nessuno, devastata dalla guerra tra bande, e diciamo su questa da questa fuga, diciamo, prende le mosse il film. La ragazza conosce Trash, se ne innamora, poi viene rapita, diciamo, dalla banda dei cattivi, e allora è qui che si innesta un po' il discorso stile Guerrieri della Notte, perché Trash deve viaggiare per tutto il Bronx attraversando i territori delle bande nemiche, e quindi ad ogni territorio c'è un ostacolo, diciamo, un comico, diciamo, scontro all'arma bianca, insomma. Prima, diciamo, incontra la banda dei ballerini che sono vestiti tipo Don Lurio, no? nei mitici programmi, no, dei varietà della Rai, e poi incontra addirittura una banda di simil cavernicoli che sono vestiti con una semplice pelle sintetica, diciamo, sai, quelle pelle, quelle si vedevano nei come si chiamano, i Power Rangers, esattamente, sì. esattamente. Diciamo, purtroppo, ecco, quello che manca un po' il ritmo in questo film, cioè è brutto in se stesso, diciamo, è brutto, esatto, però esatto, io vedo Marco che c'è in questo film Fred Williamson, che non ho potuto riconoscere dalla locandina, cioè non ho potuto non riconoscere dalla locandina, che poi è andato a fare anche film carini come Starsky Hutch, ma anche Dall'alba al tramonto o Dal tramonto all'alba, sì, dal tramonto, esatto, all'alba. Sì sì, ma Fred Williamson è un grandissimo a prescindere, e diciamo che lui e George Eastman sono un po' gli attori che riescono un po' a dare lustro a questi film, diciamo, di serie B, anche se come in questo caso diciamo il materiale a disposizione è veramente, veramente poco, però la loro interpretazione diciamo è sempre degna di nota. Purtroppo cioè, in questo film Castellari diciamo, o per motivi di budget o per motivi di poca voglia forse sì. di sbattersi non è riuscito a tirare fuori granché. Farà meglio nel seguito di questo film di cui probabilmente parleremo allora nel seguito, che quello è veramente micidiale, ma non vi anticipo nulla. Va bene, quindi questo diciamo che è brutto perché ci si annoia a vederlo. Fondamentalmente sì, diciamo, a parte un po' la scena iniziale in cui c'è ci sono diciamo la banda di quelli vestiti da hockey che in testa hanno tipo un vado da notte, esatto, sono vestiti diciamo di hockey, però in testa hanno una specie di cesso, tanto per parlare chiaro, ma che si incontrano con la banda di trash e dalla parte c'è un tizio che suona la batteria, cioè senza senso, anche senza lì lisergica, ho capito. Senti, con cosa accompagniamo questo film invece? Allora, per questo film suggerirei un trash snack piuttosto insolito, che è la banana ripiena Vidal. Non mi piace la parola Vidal, visto dopo che ieri sera non siamo riusciti a vincere. Comunque, vai. Capisco. Però ecco, è diciamo, un trash snack del tipo dolce gommoso, che però diciamo ha questa sorpresa, questo ripieno veramente imprevedibile, che praticamente poi alla fine sa di tutti i frutti possibili. Uno trash snack molto particolare perché diciamo a differenza magari degli scolini blu che sono semplicemente gomma, questo diciamo questo ripieno particolare che sicuramente può aiutare ecco magari nella visione di un film noioso, non particolarmente esatto è un trash snack brutto, quindi ti fa schifo e ti concentri sul dolce invece che sul film. Esattamente. Ah, capisco, va bene. Allora lo accompagneremo, mi raccomando, guardate, cercate, trovate 1994 I Guerrieri del Bronx perché ne vale la pena. Marco, noi ti salutiamo te e Sheila. Sì, salutiamo Sheila, grazie, assolutamente grazie. E salutateci. Aspetta, voi state esattamente a Firenze? No, noi siamo di Prato. Ah, di Prato. Ho conosciuto delle signore di Prato. Non so se le conoscete, poi te lo chiedo. Va bene. Ok, carissimo, grazie sempre. Ci sentiamo allora mercoledì prossimo per la prima puntata di febbraio. Grazie ancora per il consiglio del film brutto della settimana. Grazie a voi, ciao. E mi raccomando, state con noi perché c'è il prossimo pezzo e poi finiamo la classifica dei 10 motivi in cui realizzi di essere diventato. Perché 10 motivi? Scusami, in cui realizzi di essere diventato irrimediabilmente vecchio. Ma adesso ascoltiamo Brian Setz con Summertime Blues. Too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime. E rientriamo, abbiamo pochissimi minuti, vi diamo immediatamente i 10 motivi per cui realizzi di essere diventato irrimediabilmente vecchio al podio. Terzo, secondo e primo posto, partiamo subito dal terzo. Quando gli amici dei genitori non ti dicono più, ma come sei giovane! Giovane! Questo è un momento tragico per ognuno di noi. Già. Uno scoglio difficilissimo da superare, ci vogliono anni e anni di psicanalisi e pesanti sedute di autocoscienza a base di birra con gli amici per farcela. A spasso con tua madre incontri l'amico o l'amica Natal dei tali, che parte col solito carosello: ma è tuo figlio? Ma come ti somiglia? Io ti ho conosciuto da quando eri alto così, Gioia. Adesso quanti anni hai? Fin qui tutto bene, sei rodato, ci sei passato mille volte, sai come cavartela. Prendi un bel respiro, la butti lì con una fintissima nonchalance la tua età, restando in attesa del classico: ma come sei giovane, che ti riempie sempre l'animo di ritrovata autostima. E invece niente, niente. Una cippa. La vecchia esordisce in un secco ah. Neanche ad un punto esclamativo. Neanche un punto esclamativo. Secco, orribile, deprimente, che ti fa sgonfiare il petto e ti lascia l'animo colmo di dolore. Non piangere, ma con un'unica grande certezza: sono vecchio pure per quegli zombie delle amiche di mia madre. Yeah! E al secondo posto, ma siamo subito, quando sei troppo vecchio per il ridotto studente. Questo è tristissimo, che sia l'abbonamento ai mezzi pubblici, l'ingresso al cinema, al museo, cioè tutti ci siamo passati prima o poi, il biglietto dell'Interrail, ma anche solo lo sconto dello Sky Pass. Quando arrivi alla fatidica età in cui non rientri più nel ridotto studente. Scusate, ho detto Sky. Sky Pass è il passo del cielo. Forse è ski. C'è anche la canzone In the Sky Pass. Vabbè. Quando arrivi alla fatidica età in cui non rientri più nel ridotto studenti, capisci che hai superato il punto di non ritorno. Sei un vecchio. E non è per il poderoso ribasso, i due fetidissimi euro che ti rode, è che il mondo ti sta lanciando un marcato segnale: sei una cariatide. Da adesso, essendo stata cancellata la Naja, dovrai aspettare dovrai aspettare i 65 anni per poter usufruire del ridotto anziani. E questo onestamente ti demotiva tanto da non voler andare più al cinema. Allora, prima del primo punto, Antonio, cos'è la Naja? Intanto il primo posto. Comunque la Naja è il servizio militare. Bravo. Va bene. Andiamo al primo posto. Rullo di tamburi. Bravo. Quando i ragazzini ti danno del lei. E io la dedico a mio fratello. No, ma a me non hai capito. L'altro giorno in ospedale un bambino: senta, ancora non avevo il camice. Chi c'ha il camice? Uno del medico: senta, ma dove trovo la... Dice: guarda, ascolta, forse tu dici, senta, tu verrai di nuovo qui, ma non perché hai un problema, diciamo, non so, di diarrea, vomito, per altri problemi alle ossa. Ossa rotte. Terribile. Atroce, uno schiaffo in pieno volto. Sì. Passeggi per il centro, ti fai un giro al supermercato, sfogli un volume in libreria, prendi un caffè al solito bar, non importa, loro sono lì con quell'entusiasmo che solo il fare le cose per la prima volta ti sa dare. E poi arriva il bambino: scusi signore, ma lo dà il pallone? Sì. Meglio io lo taglio il pallone a sto cretino. Abbogamo sto pallone così. Sì. Con quel pizzico di arroganza e spavalderia tipiche dei 15 anni, anche 10. Ti toccano dentro, si girano distrattamente e te lo sparano in faccia. Mi scusi. Sbam, una fucilata e rimani di sale, inebetito. Ti passano davanti agli occhi i giorni in cui anche tu eri come loro, con lo zaino del liceo in spalla, tutto disegnato e pieno di linguette di lattine. Va bene. Di lattice. Le linguette in lattice. Ti chiedi che cazzo hai fatto negli anni da allora ad oggi. Com'è che non sei più così? Quando è che sei diventato vecchio? Eppure era solo ieri. Ieri, cazzo. E te ne vai malconcio balbettando niente. Li odi, Steve Sbarbini. Concordo. E da oggi diventerei come tuo padre quando ti diceva: ma son ragazzi, se non deciderai di toglierti la vita entro sera, è probabile che tu possa diventare un adulto decente. E questa era la classifica dei 10 momenti in cui realizzi di essere diventato irrimediabilmente vecchio. La dedichiamo a Ugo, il nostro amico Ugo, che ci sta ascoltando e che ha una bella immagine copertina. Mi ha detto: vi invito a commentarla, quindi se volete aggiungere noi lo diciamo. Ugo Seccia, trovate un'immagine copertina interessata. Ripetiamo, perché non l'ha capito: Ugo Seccia di Termini Imerese. Non abbiamo tempo per gli altri ospiti. Tony Scopelliti aveva i percetelli con pomodoro e ricotta, mi aveva detto. Io l'ho imitato pure, vabbè. Non permetterti di imitarlo. Non abbiamo tempo neanche per Fidelio, ma li avremo la settimana prossima, quindi restate con noi, tornate la settimana prossima, ma restate soprattutto con Radio Panorama, perché subito dopo di noi c'è Super Hit e poi Carta Straccia con Emilia e Marcella, quindi grande serata di Radio Panorama. E poi ancora a mezzanotte ci saremo di nuovo noi in replica. Sì, chi ci ha perso, chi vuole riascoltare queste immani vaccate, potrà seguirci sempre su radiopanorama.eu sui 106.4. Lui era Andrea, lui era Antonio, e dietro il vetro Bummo, dietro di noi invece Giorgio. Sì, ma noi siamo vestiti. Noi ricordiamolo sempre, anche sempre. Per chi ci vede alla webcam non sarebbe un bello spettacolo. Esatto. Ci vediamo mercoledì prossimo o stasera a mezzanotte. Ciao. Ciao.